You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly, che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento con Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 dedicata al tema delle migrazioni. Di solito abbiamo un italiano di origine straniera oppure un italo qualcosa che ci racconta del suo paese e del suo rapporto con l'Italia anche attraverso la cucina. È un invito quindi a cena. La comunità siriana presente in Italia è molto forte, non possiamo dimenticare stasera che ricorrono 3 anni esatti dall'inizio del conflitto in Siria e quindi dedichiamo questa puntata proprio alla comunità siriana presente nel nostro paese, a quello che sta accadendo in questo paese così simile a noi per cultura. Ci sono anche molti intellettuali. Questa sera abbiamo a cena Susan Dabuz, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Susan Dabuz, che è una giornalista, una scrittrice italo-siriana, ha pubblicato un libro, Come vuoi morire, sulla questione siriana, ma anche sul suo rapimento un anno fa, ad aprile 2013. Susan, qual è innanzitutto il piatto della sua famiglia? Ma sono tanti, in realtà ne scelgo uno molto semplice che sono in grado di fare per, diciamo così, scarsa difficoltà, che è un'insalata molto ricca che si chiama fattouche. È un'insalata che mi piace molto perché c'è il succo di melograno e poi non è particolarmente dietetica perché ci sono dei pezzettini di pane fritto. Chi lo cucinava a casa sua? Io, più che altro a farlo, perché nella mia famiglia si fanno dei piatti molto più elaborati che impiegano ore e ore di preparazione che io purtroppo non so fare autonomamente. Parliamo di cucina all'inizio della trasmissione e anche il tema costante, il fil rouge che attraversa tutta la nostra trasmissione per parlare di identità. In questo caso, da dove arrivano le origini siriane? Dal papà o dalla mamma? Nel mio caso da parte del papà, e mia madre è italiana e diciamo che ho sempre vissuto in Italia, soprattutto durante l'infanzia, l'adolescenza, gli studi, e poi ho iniziato un peregrinare per l'Europa tra Francia, Spagna, di nuovo Italia e dal 2012 in Medio Oriente. Una vita fra due culture, un'identità fra due culture. Leggo dal suo libro: nonostante l'italianità preminente, c'è un'insospettabile componente siriana ancora forte, molto forte dentro di me. Ho detto a questa interlocutrice con la quale parla nel libro che da piccola ho smesso da un giorno all'altro di parlare arabo e ho rifiutato la mia diversità durante tutta l'infanzia e l'adolescenza. Diversità che viene invece fuori adesso, no? Probabilmente anche questo conflitto, queste tensioni in Siria hanno stimolato anche da giornalista un interesse. Sicuramente, anche se poi in realtà è presente anche nel libro questo avvicinamento nel 2007, quindi insomma parliamo oramai di diversi anni, ed è stato un avvicinamento bellissimo, spontaneo. Sono stata io che ho voluto andare in Siria da adulta, perché ci andavo solo da bambina, e ho scoperto con occhi da occidentale un mondo assolutamente affascinante, che è quello appunto della cultura siriana, ma anche per le bellezze archeologiche, culinarie della Siria. E poi invece da siriana ho creato, ricreato, ho riscoperto un legame che forse non era mai comparso con quelle che sono appunto le mie origini, la mia famiglia e qualcosa che va insomma ben oltre così la curiosità da viaggiatore esterno. La cultura siriana ha dei punti veramente forti di contatto con la nostra cultura, anche con il nostro paesaggio. Ho visto in rete dei stralci del film al quale lei ha partecipato, Border, su queste due donne siriane che attraversano il confine, che è stato girato nel sud Italia, no? Nel sud del Lazio, sì. È un panorama boschivo assolutamente mediterraneo, per cui dove girare il film ho suggerito di individuare una zona che è molto simile a quella di Idlib, che è il nord ovest della Siria, e che poi paradossalmente, per una sorta di diabolica coincidenza, è la zona dove siamo stati sequestrati l'anno scorso, ed è una zona molto, molto montagnosa, collinare della Siria, che ricorda quasi diciamo un paesaggio umbro. Sentiamo insieme un video e poi vi spieghiamo da dove arriva. تاريخ 15/3. هاي انتفاضة الثلاثاء 15 أذار. Era il 15 marzo di 3 anni fa, dei giovani che manifestavano contro il regime di al-Assad nei pressi del mercato coperto di Damasco. Sentite nel sottofondo proprio i suoni di questa manifestazione. Ancora non sapevano quei giovani che da lì sarebbe partito proprio l'intifada locale e poi la repressione durissima del regime e poi il conflitto. Un conflitto che dai numeri di Save the Children è davvero spaventoso: 4,3 milioni di bambini sfollati, sistema sanitario al collasso. E ancora in Giordania, Zaatari, dove sorge il secondo campo profughi più grande al mondo, ci sono circa 100.000 persone, per lo più siriane, che ormai vivono quasi stabilmente lì. Io ho letto alcuni passi del libro molto forti su questo rapimento, ma in particolare uno in cui racconta di essere stata separata dagli altri reporter che erano stati rapiti con lei, presentata alla moglie di uno dei ribelli, e lei dice: abbiamo passato del tempo cucinando assieme, che ritorna un po' il tema della nostra trasmissione. Al di là del cucinare insieme a questa donna, com'è stata l'esperienza terribile e drammatica di questo rapimento? Ma guarda, io partirei proprio invece da questo incontro, che è stato sicuramente umanamente molto importante, perché da quella che si era paventata come una situazione terribile, cioè un sequestro in piena regola, cioè siamo stati portati in una prigione, in questa prigione succedevano cose terribili, venivano torturate altre persone, noi no, perché siamo stranieri, quindi c'era diciamo così una specie di codice protettivo nei nostri confronti. Però conoscendo appunto la loro ideologia islamista, sapevo che come donna avevo dei vantaggi e degli svantaggi. Tra i vantaggi sapevo che in qualche modo potevo chiedere una prigionia più umana, più femminile, nel senso anche igienico del termine, per cui avendo chiesto io spontaneamente di imparare la preghiera, quindi un processo di conversione, mi hanno portato da questa donna. L'incontro è stato umanamente molto bello, anche se poi nel libro viene raccontato come questo incontro e scontro di culture, perché lei comunque è una jihadista, lei è un'estremista islamica, poi porti dentro di me una serie di riflessioni anche su chi sono io e che tipo di Siria avevo conosciuto precedentemente, una Siria islamica ma ovviamente non fondamentalista. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You've got to give a little. Story of has the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, and let the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. Siamo ancora Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 dedicata all'identità attraverso la cucina degli stranieri in Italia. In questo caso parliamo della Siria, di quello che sta accadendo a 3 anni dall'inizio del conflitto in questo paese, della presenza in Italia di molti profughi siriani, ma non solo, anche attivisti, intellettuali come Susan Dabush, con la quale stiamo parlando. Terminavamo la prima parte della nostra chiacchierata parlando appunto di questo incontro durante il suo rapimento in Siria con questa donna, e anche della particolarità, no, dell'essere donna durante un rapimento. Io leggevo tra l'altro un'intervista nella quale lei raccontava anche il senso del niqab, del velo che le donne islamiche si mettono addosso, e che c'è tutto sommato un tabù, forse un luogo comune in Occidente su questo velo. Sì, ma il niqab, che è il velo integrale, è sicuramente una scelta minoritaria delle donne islamiche. La maggior parte portano l'hijab, che copre semplicemente i capelli. Per quanto riguarda il niqab, sicuramente la maggior parte delle donne nei paesi islamici lo indossa volontariamente, per cui non c'è un discorso di oppressione diretta. Forse può essere indiretta nella misura in cui si viene indotti in un determinato contesto sociale a portarlo. Per quanto riguarda la scelta libera appunto di chi lo vuole indossare, c'è dietro ovviamente un discorso culturale, cioè chi abbraccia la religione in un determinato modo, ma c'è anche un discorso invece puramente protettivo, che è quello che poi ho sperimentato io personalmente, cioè vivere in un contesto in cui più sei coperta e meglio stai, cioè è un po' come il burqa in Afghanistan. Sono veramente delle barriere fisiche che preservano tantissimo dalla violenza che c'è intorno. Come mai questo libro con questo titolo così forte? Il titolo è bivalente, cioè da un lato ho ricevuto veramente delle minacce di morte, dall'altro invece Come vuoi morire è una sintesi di un dialogo sul concetto di martirio che ho avuto io con questa donna, che è stata la mia carceriera. E Come vuoi morire era stata una domanda spontanea, un po' come qual è il tuo colore preferito, e questo mi ha colpito tantissimo, perché per loro la morte è una cosa bella dal momento in cui appunto viene idealizzato questo paradiso nella sua versione più materiale, più terrena, più edonistica, e la cultura del martirio, ovvero appunto arrivare a vedere la morte come un momento assolutamente naturale, se non quasi celebrativo, della vita, per arrivare a questo paradiso, a qualcosa che ci distanzia tantissimo da quella cultura. E quindi questa domanda, qual è la tua morte preferita, mi ha aperto il loro mondo, e ho provato a vederlo, a descriverlo in questo libro. Prima di lasciarla, quando era piccola, diceva, era tutto sommato, nascondeva la sua identità siriana. Com'era essere in Italia con un'identità a metà, no? Un po' siriana, un po' italiana, con radici altrove? Come tutti i bambini, ho avuto sicuramente un desiderio di omologazione, quindi non volevo essere diversa dagli altri. Diversità che poi invece uno scopre ad adulto e si rende conto che è una grandissima ricchezza. Certo. Per quanto riguarda le cose che mi davano fastidio della diversità di quando ero piccola, erano delle cose veramente superficiali, che però fanno la vita di un bambino, di un adolescente, e oggi sono cose quasi grottesche, che oggi mi fanno sorridere. Cioè c'erano le curiosità su perché non si può mangiare la carne di maiale, le battutine, la cosa che arrivava il Ramadan, tutti lo pronunciavano male e tutti facevano delle domande banali che non volevo assolutamente, a cui non volevo assolutamente rispondere, poi non mi sentivo neanche così addentro, non ero neanche, diciamo così, una praticante, perché sono sempre stata laica, per cui non volevo, ecco, essere etichettata in quel modo. Oggi ovviamente, con una consapevolezza adulta, tutto si affronta con col sorriso, ma anche, insomma, con una certa profondità. Grazie a Susan Dabush del suo libro, che è in libreria in questi giorni, Come vuoi morire, sulla questione siriana. Grazie per essere stata con noi questa sera, buona serata. Grazie a voi. And I will have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. E siamo in questa seconda parte della trasmissione con un altro scrittore attivista per i diritti umani italo-siriano, Shadi Hamadi. Buonasera. Buonasera. È nato a Milano da mamma italiana e padre siriano, l'abbiamo già avuto in trasmissione ospite qualche tempo fa, ha scritto anche un libro, La felicità araba, storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana, è appunto molto attivo per i diritti della Siria e ha fatto parte, anche ha firmato anche questo appello degli scrittori per la Siria. Shadi Hamadi, questo appello firmato anche da Dario Fo, da Loredana Lipperini e poi da molti altri scrittori intellettuali, per rompere questo silenzio assordante dell'Occidente di questa guerra in Siria che ormai va avanti da 3 anni, no? Esatto, siccome il 15 di marzo ricorre il 3° anniversario, quindi oggi, della guerra in Siria, mi è parso giusto, insomma, visto che siamo qua in Italia, a provare a scrivere questo appello e a proporlo a tanti amici, tra cui appunto Dario Fo, ma anche altri che si sono uniti dopo, come il vescovo di Mazara del Vallo e tanti altri, per mandare un segnale alla società civile italiana, per guardare a quello che sta succedendo e tentare così di riaccendere qualche luce su quello che avviene in Siria. E lei si chiede nel suo libro, che prima ho citato, dov'è Dio? Lo chiede a un giovane che è stato torturato e lui risponde: lascia stare Dio, chiediti invece cosa, dove sono i 7 miliardi di abitanti di questo pianeta, no? L'Occidente dov'è? È stato presente nel caso della Libia, è presente per quello che sta avvenendo in Ucraina, invece come mai la Siria è così trascurata? Perché probabilmente non c'è nessun interesse, sia a livello economico e sia anche c'è una paura della stessa comunità occidentale di andare ad affrontare la Russia, che è la Russia che tiene in piedi il regime siriano insieme all'Iran. I diritti umani, il rispetto della popolazione e della vita non interessa a nessuno. Poco tempo fa è arrivato a Roma un altro amico, che è Mustafa Khalifa, che ha passato, questo scrittore, circa 13 anni nelle carceri siriane, lui cristiano, torturato per 13 anni, ha visto cose inimmaginabili, ateo lui, non crede nell'esistenza di un Dio dopo quello che ha visto in Siria, e anche lui si poneva delle domande. L'Occidente, per quanto ancora può parlare di libertà, diritti umani, giustizia, se lascia quello che accade appunto in Siria, se vincesse Assad, cosa accadrebbe in Siria? Accadrebbe probabilmente che 10 milioni di persone dovrebbero rimanere fuori dal paese e arriveremmo a 500.000 di morti, visto che già siamo a 200.000, e tutti quelli che si sono hanno preso una parte in quello che accade, andrebbero a pagare le conseguenze. C'è un video di Save the Children che è stato diffuso pochi giorni fa, molto interessante, ora lo sentiamo. In questo video c'è una ragazzina britannica, quindi non siriana, che passa da una vita di felicità, di compiti, di giochi, di scuola, a una vita sotto le bombe. E il claim è molto interessante di questo spot della ONG, perché dice appunto perché non accade qui non è detto che non stia accadendo, cioè cerca di farci finalmente scuotere dal nostro torpore che potrebbe accadere anche a una bambina britannica, italiana o quant'altro. C'è stata anche una guerra di immagini in questi mesi, no? A partire dalle terribili immagini dei ragazzi gasati che abbiamo visto tutti su internet dal regime, per passare a quella foto del bambino poche settimane fa, del bambino profugo con la valigia che sembrava solo nel deserto, ad attraversare il deserto per andare fuori dalla Siria, invece poi allargando la foto si è visto che era insieme a una folla di persone, non era solo, ma era solo perché non aveva i genitori, e qui è stato i media hanno parlato molto di questa bufala, no? Però in realtà il ragazzino, il bambino, perché era molto piccolo, in realtà era senza genitori davvero, poi li ha fortunatamente trovati. Una guerra quindi di immagini, di spot, di verità e non verità da tutte e due le parti un pochino. Ovviamente il regime si è appropriato molto e ha saputo usare molto queste immagini. Shadi Amadi. Vede, purtroppo io mi ricordo benissimo Amzali Khatib il 25 di maggio del 2011, quando è stato riconsegnato il corpo mutilato dai servizi segreti ai genitori, aveva 13 anni questo bambino. Mi ricordo i bambini di Ula tagliati a pezzi un anno dopo, e quindi continuamente questi massacri. Sembra che l'Occidente, la stampa occidentale, faccio dire, la stampa si focalizza soltanto su quello che avviene in Siria quando c'è qualcosa di speciale, specialmente drammatico, così, e allora tende soltanto a parlare della Siria quando ci sono grossi numeri o cose efferate, delitti efferati, o se no si rimane in quelle, secondo me, a mio giudizio, insomma, di fronte a quello che accade, quelle inezie che può essere, si va sempre a puntare il dito sul jihadismo, puntare sul fondamentalismo, ma dimenticando che anche dall'altra parte c'è una jihad sciita, e quindi dovremmo parlare di tutte quante e due queste cose. Quindi è questo il più grosso problema, quasi fosse un orientalismo. Come lo raccontava Edward Said, con gli occhi che noi usiamo per guardare questo Occidente. Quando noi capiremo che queste cose in Siria non accadono da 3 anni, ma accadono da 40 anni, perché anche mio padre è finito in prigione torturato, allora forse guarderemo la Siria con altri occhi. Grazie a Shadi Amadi, buona serata a lei. Grazie a voi. E ora sentiamo un'intervista a Marco Guadagnino, che è portavoce progetti internazionali di Save the Children, che è appena tornato dal campo profughi Za'atari, come dicevamo il secondo più grande al mondo, con 100.000 profughi, la metà minori, quasi tutti siriani. L'abbiamo sentito proprio pochi giorni fa. La situazione è una situazione molto grave. Il nostro rapporto che abbiamo da pochissimo pubblicato racconta del collasso del sistema sanitario in questo momento in Siria, un collasso che ha quasi dell'incredibile. Ci sono alcuni dati, il 96% delle donne della guerra riuscivano a partorire in un contesto assistito, in centri sanitari, in ospedali, assistiti da servizi ostetrici. Adesso questa percentuale si è ridotta di 3/4, è ricomparsa la polio, i bambini non vengono più vaccinati per il morbillo, insomma una situazione molto molto complessa, situazione della quale purtroppo si parla poco, e 2/3 degli ospedali sono stati distrutti. Insalata fattouche. Il fattouche è un'insalata tipicamente medio orientale, consumata in particolare in Siria, Libano e in Israele. Caratteristica del fattouche è un ingrediente speciale, la pita, pane arabo, tostato o leggermente fritto. Ingredienti: 2 piadine di pane arabo tostato al forno, 1 bicchiere di grano spezzato, burgol, 1 bicchiere di succo di limone,